santo, santo, santo, santo, santo il forte che sta sulla Prenestina, santo, santo il generale che lo vuole costruire, santo, santo, santo il generale che lo lascio vuoto, santa, santa la discarica che diventò, santi i barboni e clochard che l'abitavano, santi drogati, teppisti, vandali e coatti, santa la festa del non lavoro, santi quelli di vuoto a perdere gli altri di cento celle, santi i Bloody Riot, santi i compagni e le compagne, santi gli autonomi, gli hippie e i punk che si portavano dalle borgate fave e pecorino, santo, santo chi si fece strada tra i rovi per esplorare il forte, santo, santo, santo il primo maggio del 1986. Da allora tutto è santo, ogni giorno degli ultimi 30 anni è santo, l'assemblea di autogestione è santa, e santi tutti coloro che hanno varcato nel tempo quel ponte levatoio che dà accesso a un mondo parallelo, psichedelico, supersonico, erotico ed estatico, santa la terza dimensione del forte. Sante le coltivazioni di cannabis, santi gli angoli dove si sono consumate tutte le sostanze della percezione infinita, sante le allucinazioni, santi i miracoli dei baci con la lingua, santa la pupilla, santo l'abisso, sante tutte le scopate, i cazzi, le fiche, i buchi di culo che hanno goduto tra stanze e corridoi e piazze d'armi. Santo, santo, santo il forte quando piove, quando fa freddo un caldo da morire, santi prati e le colline, la rugiada, il tramonto e le notti interminabili, sante, sante le albe elettriche al forte e sante le donne che non smettevano mai di ballare sotto cassa, sante i mille palcoscenici e santi 100.000 musicisti, performer, relatori, fuori di testa, visionari e pazzoidi che hanno preso un microfono in mano, santi tutti i pastori della ribellione, santi i cessi intasati, i dormitori, le sale prove, santissimi e beati tatranti che non mancano mai, santi i laboratori, le librerie, gli infoshop, santo il rap, le poste, la pantera, la cordata e musica forte, santi gli assalti e Santa Vana BBS, santi bar, la sala cinema, i labirinti delle cantine, santo, santo, santo John Sinclair degli MC5, quella volta che ha recitato il respiro beat giù in cattedrale, santo contagio distribuzioni e santa la torretta e leprone, santo il cicidone e tutti i rave, santi gli hack meeting e vecchi computer che funzionano ancora, santa l'agenda di Manu, santo il sassofono gemente del jazz, santa l'apocalisse hip hop, santi gruppi punk, psichedelici, rockabilly, santo il ritmo levare del reggae e santi persino i bonghisti.